si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, buona domenica, ben ritrovati. Eccoci qua con Si può fare insieme fino alle 10 in questa nuova stagione, un'ora di meno. Cercheremo di concentrare tutte le nostre buone notizie. Sì, l'unico programma inimitabile, sempre a caccia di buone notizie. Dopo una stagione, una calda estate ad agosto a tenervi compagnia tutte le sere dalle 18 alle 20:30, torniamo nella collocazione weekend con la puntata di ieri e con la puntata di oggi, insieme a Carlo Gabardini, che rientrerà la settimana prossima, insieme ad Andrea Piana, autore di questo programma, Claudia Schiattone, assistente, redattrice, autrice, Lorenzo Nespoli in assistenza in diretta e oggi Peter Bescapè in regia, così abbiamo detto i nomi di tutti. Cominciamo con una versione leggermente diversa, cercheremo di seguire una strada nuova questa domenica, una strada più da settimanale, lo scopriremo strada facendo appunto, ma non cambia la formula del gioco. 800 24 00 24, il numero verde per intervenire in diretta, comunque sempre per commentare le notizie di questa settimana e anche per giocare con noi alla ricerca di un personaggio della settimana. Anche oggi in palio mettiamo una mini guida di Expo edita dal gruppo 24 ore, 24 ore cultura. Il primo indizio che vi do, cari ascoltatori, per cercare il personaggio di questa settimana è un indizio abbastanza facile, è uno sportivo. Scatenatevi, 800 24 00 24. Vi ricordo, se vi siete dimenticati, anche i nostri contatti, la pagina Facebook Si può fare trattino Radio 24, l'account su Twitter è chiocciola Si può fare 24, il mio è chiocciola Ale Maurizi. Andiamo, cominciamo, vai. Allora, sempre a caccia di buone notizie, a cercare il bello dell'attualità, così come cambia, così come si trasforma, sempre in un'ottica di Si può fare, ripercorreremo a grandi linee la settimana, non in maniera esaustiva, non in maniera completa necessariamente, ma ripescando un po' di notizie di questa settimana e dove è possibile, la settimana appena trascorsa, dove è possibile, andando a cercare laddove si realizza, dove si trovano delle soluzioni, dove si può fare. Allora, la settimana si è aperta con un appello autorevole, importante, sul tema dei migranti. Lo ha fatto il Papa parlando all'Angelus e per una volta, diciamo, non si è rivolto al mondo, ai politici, alle comunità internazionali, si è rivolto all'interno della Chiesa dicendo questo, sentiamo. Rivolgo un appello alle parrocchie, alle comunità religiose, ad esprimere la concretezza del Vangelo e accogliere una famiglia di profughi. E allora, è sembrata quasi una risposta a chi aveva detto alla Chiesa, dopo che il Papa aveva detto bisogna accogliere i migranti, chi aveva detto alla Chiesa, beh, cominciate voi a dare il buon esempio. Insomma, una polemica che viene da lontano e che quest'estate ha avuto momenti acuti, diciamolo, tra la Lega, in Italia almeno, e proprio il Vaticano. Vedremo poi, perché tra poco torneremo su questo argomento parlandone con un prete di frontiera, vedremo se questo appello del Papa è stata una reazione oppure una reazione a questa, diciamo, catena politica di dichiarazioni calde di quest'estate, oppure se è stato invece un altro tassello di questa rivoluzione che Papa Francesco sta facendo all'interno del Vaticano: meno privilegi, meno auto blu, meno vestiti di lusso, il Papa che non dorme in Vaticano ma dorme con le suore, il Papa Francescano, il Papa che ricorda alle chiese dovete ospitare chi ha bisogno. Il tema dei migranti però ha anche altre facce questa settimana, è stato un susseguirsi di notizie continuo, l'appello ad accogliere, accolto appunto l'appello stesso dalla Germania e dall'Austria ma non dall'Ungheria, sono notizie su cui siamo stati bombardati questa settimana, è inutile stare a ricordare, stiamo invece a ricordare come è andato il dibattito in Italia con la presa di posizione del leader della Lega Salvini proprio sulla decisione che è una svolta epocale della Germania, di Angela Merkel, di dare accoglienza a tutti i rifugiati siriani in Italia. Salvini così. Aspetta, la Merkel accoglie i profughi. Ridicola. ridicola, accoglie i siriani, Ciumbia, dove c'è effettivamente guerra, sceglie anche che tipo di immigrati accogliere, tutto il resto del mondo invece deve accoglierlo l'Italia. Arrivare a strumentalizzare anche questo, anche la vita strumentalizzano, non rendendosi conto che di fronte a quelle immagini non c'è il PD contro la destra, ci sono gli umani contro le bestie e basta! Quindi questo è stato il botta e risposta, tra l'altro che non si conclude perché sta ovviamente andando avanti, tra Salvini e Renzi. Salvini che poi ha replicato a Renzi definendolo un verme, perché, sentite, il Presidente del Consiglio che usa un bimbo di 3 anni morto su una spiaggia per fare la sua campagna elettorale, dal mio punto di vista è un verme. Movimento 5 Stelle, Paola Taverna, sempre in tema di definizioni animalesche. Ma d'altronde chi è artefice dei vari CARA e dei vari CIE, per come li conosciamo oggi, era il minimo che poteva fare lo statallo su quella foto, quindi no, non mi sorprendo di niente. E allora, noi vogliamo parlare di tutto questo con un prete di frontiera, lo abbiamo detto, uno di quelli che ospitano da prima che il Papa facesse l'appello a ospitare chi ha bisogno nelle parrocchie italiane, Don Angelo Cassano da Bari, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Don Angelo, io l'ho detto, l'appello del Papa di domenica scorsa è sembrato quasi una risposta a quei politici che quest'estate avevano detto alla Chiesa, dopo che la Chiesa aveva invitato tutti ad accogliere, facendo questo appello morale, comprensibile dal punto di vista della Chiesa, ma discutibile dal punto di vista politico della fattibilità reale, ad accogliere. E era stato detto, cominciate voi a farlo, cominci la Chiesa ad ospitare. Questo appello del Papa, di Papa Francesco, lei lo ha letto così o in un'altra maniera? Certo, il Papa non è che risponde alla politica strettamente, il Papa risponde al Vangelo innanzitutto, e quindi credo che Papa Francesco non debba dimostrare a nessuno, anche perché dalla sua esperienza di Buenos Aires e dell'Argentina, insomma, e dalla sua sensibilità, credo che stia dimostrando che la Chiesa non è che solo dice, ma completamente sta. E poi voglio dire, sì, non dimentichiamo che da anni, anche senza fare tanti clamori, molti di noi accolgono e sono tante volte schierati contro le politiche, diciamo, xenofobe, comunque voglio dire contro la legge Bossi-Fini, contro quello che è stato il tipo di risposta che noi abbiamo dato ai migranti in questi anni in Italia. No? Insomma, lei dice le parole del Papa sono in linea col suo stile, col suo personaggio, con quello che lui ha fatto quando era in Argentina, non sono quindi una svolta dovuta a questione di opportunità politica. Sono una svolta nel senso che in Italia non si è abituati ad avere un rapporto così. Il Papa, certo, non è che sta lì a fare compromessi con nessuno. Sono forse più da inserire come un ulteriore tassello di una rivoluzione, chiamiamola così, che Papa Francesco sta facendo per quanto riguarda anche il Vaticano al suo interno, meno privilegi, una chiesa francescana, si è detto fin dall'inizio che torni alla sua missione. Questo possiamo dirlo, forse glielo chiedo, tenga la risposta in sospeso perché torniamo tra un secondo. Dopo il traffico, intanto ascoltatori 800 24 0024. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, all'800 24 0024. Tra poco sentiremo anche i vostri interventi. Adesso stiamo conversando con Don Angelo Cassano, prete della parrocchia di San Sabino, nel quartiere Japigia di Bari, giusto? Sì, giusto. La domanda che io le ho rivolto è questa: se, come dice lei, e io sono d'accordo, il Papa Francesco è coerente con se stesso quando fa questo appello alle parrocchie in tutto il mondo, non solo in Italia, ad accogliere i migranti per questa situazione epocale che stiamo vivendo, allora forse è un altro tassello di questa rivoluzione, vogliamo chiamarla così, che Papa Francesco sta facendo in Vaticano. Magari qualche vescovo, qualche prete, non come lei, un appello del genere ha potuto viverlo anche in maniera urticante, come un'entrata a gamba tesa, non lo so. Comunque il Papa sta chiedendo a tutta la Chiesa di fare una scelta precisa, no? Comunque di non entrare in un'ottica di gestione della carità, ma di creare una carità diffusa, una realtà, diciamo, che coinvolge tutti nella essenzialità, nella semplicità. La Chiesa non ha bisogno di tante cose, ma semplicemente di essere un luogo aperto, una casa accogliente per tutti. Questo ci sta dicendo Papa Francesco. Ma in passato alcune parrocchie, adesso lei ci racconterà che cosa fa lei da tanto tempo, alcune parrocchie, alcune diocesi hanno fatto troppo poco sul fronte dell'aiuto a chi ha bisogno, i migranti, diciamo, profughi compresi. Un atteggiamento prudente, più prudente, diciamo così, no? Rispetto alle dinamiche, alle mediazioni politiche, si aveva forse meno voce profetica. Oggi invece è richiesta una voce più profetica, più coraggiosa. Però dobbiamo perdere qualcosa. Un atteggiamento prudente, Don Cassano, può anche essere, cioè, lei lo dice così, ma può anche essere letto come avere fatto poco, troppo poco in alcuni casi. Sì, sicuramente in alcuni casi si è fatto poco. Bisogna avere il coraggio di dirlo, di fare un esame di coscienza. La Chiesa italiana è chiamata oggi anche a fare un esame di coscienza rispetto a quelle che sono state un po' le dinamiche passate, anche rispetto alle mediazioni politiche, istituzionali. Lei che tipo di lavoro fa, Don Cassano? Quante persone ospita? Io ho cominciato la mia esperienza proprio aprendo la mia canonica. Io ero arrivato nella mia parrocchia nel 2002, mi sono trovato di fronte ai primi rifugiati, a Bari c'è un CARA, c'era allora, non erano i CARA, erano i centri di identificazione. I CIE si chiamava. CIE. Sì. Siccome, no, i CIE sono un'altra cosa, i CIE sono i centri di identificazione ed espulsione. Di detenzione ed espulsione. I CARA sono i centri di identificazione, quando uno arriva, poi magari se è richiedente asilo fa domanda per avere lo status di rifugiato. Quindi ci abbiamo sia i CIE che i CARA a Bari. Quindi abbiamo un CARA e un non CIE. Vi siete fatti mancare niente. Senta, Don Cassano. No, noi abbiamo e quante persone, a quante persone lei adesso sta dando una mano, sta dando ospitalità? Ma adesso io praticamente, diciamo, qui abbiamo già rapporti con varie comunità che sono qui. Per esempio c'è una comunità di somali che aveva occupato un ferrotel, c'è un'altra comunità di migranti che ha occupato un altro spazio. Ci sono tanti rifugiati politici che vivono praticamente per strada, hanno bisogno sempre continuamente di assistenza. Quindi io ho un numero preciso, sono in casa, diciamo, finché ho potuto ospitare, perché poi a un certo punto ho dovuto smettere, perché mi era stato detto di non tenere le canoniche aperte, ma di trovare altri spazi. Chi glielo ha detto? Chi gli ha detto di non fare più questo, Don Cassano? Adesso, un po' di anni fa, quando è successo il vescovo. Poi dopo, diciamo, lui non è che era contrario. Perché il vescovo era contrario a che lei ospitasse proprio dentro la canonica? No, non era proprio, lui era contrario alle canoniche, perché diceva che le canoniche in qualche modo erano un luogo per i sacerdoti, quindi domani magari andavo via io, veniva un altro, e quindi si imponeva. Invece diceva che la comunità, la parrocchia, deve trovare altri spazi per accogliere. Quindi volevo specificare un po' questo aspetto. Cioè non è che era proprio del tutto contrario all'accoglienza, ma era dell'idea che le canoniche potessero. Però io mi trovavo, o con molti di noi oggi si trovano soli in queste canoniche, perché ormai non ci sono più vocazioni, sono poche. Quindi abbiamo le parrocchie con un solo prete e con case magari grandi, alcuni addirittura. Però adesso lei con questo appello del Papa alle spalle tornerà a fare quello che faceva adesso prima. Ancora chiaro, di più. Il momento è cambiato, ora bisognerebbe, diciamo, ridiscutere a livello diocesano, a livello di Chiesa, e cercare di capire come utilizzare i nostri immobili, perché il problema è pure questo. Cioè gli immobili che noi abbiamo, le strutture che la Chiesa ha, in che modo possono essere utilizzate? Perché questo è quello che ci sta chiedendo anche Papa Francesco, insomma. perché in effetti diciamo che su questo bisognerebbe aprire tutta una discussione e un confronto. Senta, ma ieri per esempio Don Caffarra di Bologna, credo che sia il vescovo di Bologna, ha detto, ha invitato a distinguere: l'ospitalità va data a chi ha una protezione, ai rifugiati, ai profughi, ma non per esempio agli immigrati, quelli non sono, diciamo, immigrati economici. Che non... Lei è d'accordo? Non credo, no? Io non credo a queste distinzioni, mi permetto di con tutto il rispetto di Caffaro, del cardinale, ma io non credo che uno debba fare queste distinzioni, tanto più un uomo di chiesa non potrebbe fare queste distinzioni, anche perché in Italia sono quasi tutti richiedenti asilo, sono quasi tutti rifugiati, perché mi dite voi la situazione della Somalia o dell'Eritrea che cos'è? Non è una guerra da anni che si porta avanti lì? Quante responsabilità noi abbiamo in queste nazioni? Quindi io questa distinzione, mi permetto di dire, non la condivido, perché sì, c'è una percentuale anche di migranti che viene qui, sì, per dare una svolta alla propria vita in termini lavorativi, ma è minima rispetto ai rifugiati poi o ai richiedenti asilo. Senta, lei ha detto in una intervista, credo da qualche parte, qualcosa come Salvini in chiesa non lo farà entrare o qualcosa del genere. No, non ho detto cosa questo, ne pensa? No, non mi permetterei mai, perché io sono dell'idea che, diciamo, la chiesa deve essere comunque un luogo aperto. Io avevo soltanto detto in quell'intervista, che poi i titoli hanno cambiato un po' le cose, come sempre, no? Avevo detto che, diciamo, che bisogna capire un po' di fronte al Vangelo come si pone uno che dice che bisogna utilizzare le ruspe o che bisogna rimandare indietro e che in qualche modo si trova di fronte a questo dramma oggi, che non è solo di un bambino che ha negato. Io vorrei ricordare, devo salutarla, però devo salutarla perché ho il giornale radio. Io la ringrazio per essere stato con noi, Don Angelo Cassano da Bari, grazie, buona giornata. 800 24 00 24, cari ascoltatori, stiamo cercando anche un personaggio della settimana che è uno sportivo. A dopo. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia e Burro delle Alpi di Brazzale, fidati di chi conosci da 200 anni. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno e buona domenica, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Si può fare. Ritorniamo nella collocazione weekend, il buongiorno di Radio 24, il sabato e la domenica mattina, dopo avervi tenuto compagnia in una calda estate, tutte le sere dalle 18 alle 20:30. Eccoci qua, staremo insieme fino alle 10, aspettiamo anche i vostri interventi all'800 24 00 24. Per commentare le notizie di questa settimana tentiamo la strada di un riepilogo delle notizie della settimana. Cambiamo leggermente formula, sempre però a caccia di buone notizie quando possibile, a cercare di trovare tutto il bello dell'attualità che cambia, e anche giocando con voi come ogni domenica. Stiamo cercando un personaggio della settimana, mettiamo in palio la mini guida di Expo edita dal gruppo 24 ore, 24 ore cultura. Il primo indizio che ho dato è che il personaggio di questa settimana è uno sportivo. Tra poco riprenderemo il riepilogo della settimana, adesso sentiamo poi gli ascoltatori. Emilio da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Prego. Secondo me il personaggio della settimana è Pietro Mennea, perché questa settimana si festeggia l'anniversario del record mondiale di 200 metri. Ah, giusto. Adesso io non ricordavo esattamente la data di questo record, perché in effetti, anche se il personaggio è un grandissimo personaggio, non è lui quello a cui avevamo pensato. Emilio, grazie per aver chiamato. E lei? Grazie. Buona giornata, salve. È un altro sportivo. Adesso tra pochissimo un altro indizio. Andrea da Bologna, buongiorno. Buongiorno, io saluto tutti. Sì. Non avevo chiamato per il personaggio sportivo perché ho acceso tardi, non sapevo neanche, sì, che ci fosse questa cosa. Volevo solo porre un quesito, diciamo, riguardo all'intervento precedente, quello di Don Cassano, sì, che secondo me rivestiva al suo interno una serie di autocontraddizioni, come ad esempio aver detto: ah, io lavoro, accolgo, faccio così. Quando lei ha chiesto al Don: ma lei personalmente quanti ne accoglie dentro casa sua, ovvero dentro la sua canonica, che sarebbe la cosa migliore che la Chiesa potesse fare, aprire sì. le canoniche, aprire le proprietà. Lui ha detto: ah no, ma veramente qualche tempo fa mi è stato detto di non accogliere nessuno. Allora, quello che io mi domando, quello che dice Papa Francesco è verità o è marketing? Visto che poi alla luce dei fatti magari solo il piccolo sì. prete, di sua spontanea volontà, perché è un uomo di bontà, non perché è un prete, aiuta concretamente con i mezzi che non gli vengono, secondo me, forniti a sufficienza dalla Chiesa. Ma lo vede, è proprio questo il fatto, proprio. È proprio questo il fatto. Io credo esatto, che l'appello sì. di Papa Francesco sia arrivato proprio, sia entrato in questa questione qua. Cioè, Don Cassano ce l'ha spiegato chiaramente. Lui ospitava direttamente nella sua canonica, in casa sua. Poi il Vescovo, qualche tempo fa, gli disse di non farlo, di non aprire la canonica, di non ospitare dentro gli spazi della Chiesa, per non impedire le funzioni religiose, ma anche per altri motivi non detti, non comunicati. Ecco che Papa Francesco, con questo appello, dice: no, dovete fare esattamente quello che faceva Don Cassano. Io la vedo così. Poi che ci riescano a farlo, non lo so, probabilmente ci sono delle resistenze, tutto quello che volete. Sicuramente questa è la mia opinione, l'ho chiesto anche a Don Cassano, il quale dal suo punto di vista era ovviamente d'accordo. Il Papa sta cercando di fare una piccola rivoluzione all'interno del Vaticano, all'interno di quello che sono le chiese italiane. Proprio per questo dovrebbe bacchettare quei vescovi che hanno chiesto ai prelati di non farlo. Probabilmente deve fare anche questo. Probabilmente dovrebbe fare anche questo. Speriamo che lo faccia. Io me lo auguro, perché ho paura che sia tutta una grande operazione di marketing. Noi ci stiamo sentendo dire quello che ci vogliamo sentire dire per non far perdere consensi alla Chiesa. Questa è la mia personalissima idea. Può darsi, diciamo, può darsi, però io credo che, grazie Andrea, ex credente? Sì, ho perso fiducia completamente nell'istituzione Chiesa, cioè sì. io in Dio posso credere, ma non in chi lo rappresenta su questa terra. Beh sì, sono due cose, sicuramente sono due cose diverse. Può darsi che sia un'operazione, grazie Andrea per aver chiamato, un'operazione di marketing, però io credo che le parole abbiano un peso e quelle di Francesco lo hanno avuto. Ripartiamo con il riepilogo della settimana. Il tema questa volta è il tema, diciamo così, i funerali dei Casamonica, lo show dentro la trasmissione, o l'approfondimento dentro la trasmissione di Bruno Vespa, Porta a Porta. Qualcuno ha voluto vedere in questa ospitata proprio questo problema, una forma di spettacolarizzazione, di banalizzazione di quelle che sono le responsabilità dei Casamonica. Sentiamo invece come si è difeso Bruno Vespa. Porta a Porta deve occuparsene? Sì, come doveva occuparsene? Invitando due persone incensurate e contraddicendo tutte le tesi della famiglia, che è una cosa molto più ampia di Vittorio Casamonica, la famiglia Casamonica, con due signori giornalisti, il direttore del Messaggero e il capo dei servizi giudiziari del Corriere della Sera, e con me stesso, che abbiamo contestato punto su punto. Più di questo, secondo me, il servizio pubblico, meno di questo non doveva fare, più di questo non poteva fare. Così Bruno Vespa, il Partito Democratico che governa Roma e che ha dovuto gestire la grana dei funerali, per la verità in maniera non proprio brillante, di Casamonica ad agosto, da cui tutto è nato, adesso attacca Bruno Vespa, l'assessore Esposito, il neo assessore Esposito. Queste sono le sue parole, sentiamo. I Casamonica, per chi si è letto le carte giudiziarie, hanno una storia criminale che è trentennale e forse non è anche qualcosina di più. Vespa ha fatto un'operazione, e qui c'è l'elemento di critica fortissimo, che è quella di banalizzare la portata criminale. E ancora l'assessore alla legalità del Comune di Roma, Sabella, ospite di Bruno Vespa in una puntata che è stata definita puntata riparativa. Allora, io non so, avrò testato nessuno quando Michele Santoro ha portato Massimo Ciancimino, noto galantuomo. Le posso dire una cosa? Un giorno sì, l'altro pure. Io ero stato invitato a partecipare alle trasmissioni di Michele Santoro con Massimo Ciancimino, non ci sono andato. Le persone perché che personalmente hanno... mi sono rifiutato, ma lo sa perché? Sì. Mi sono rifiutato perché noi gli diamo legittimazione a queste persone e io non le legittimo. Perfetto. Gliela do questa legittimazione. Quando? 800 24 00 24, cari ascoltatori, vi aspettiamo anche per commentare questa notizia della settimana. Tra poco invece vi racconteremo, dopo il traffico, una buona notizia, o almeno il tentativo di realizzare una buona notizia in Sicilia, che ha a che fare proprio col tema della legalità. Vi aspettiamo anche per il personaggio della settimana, è uno sportivo. Tra poco un altro indizio. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, allora, con una telefonata di un ascoltatore, Gabriele, che chiama da Milano. Buongiorno, benvenuto. Domenica. Domenica. Su cosa voleva intervenire? A Flavia Pennetta, per quanto riguarda il personaggio della settimana, visto che è uno sportivo e vista la sua vittoria agli US Open di tennis e alla grinta che ci ha messo nel dire applaudite anche me, senza poi l'attributo, ovviamente. Sì, beh, no, Flavia Pennetta ci starebbe assolutamente tutta la vita, ma come ci starebbe anche Roberta Vinci, una finale straordinaria. Gabriele, però non era lei il personaggio, diciamo, sarebbe stata la risposta più ovvia questa settimana parlando di un personaggio sportivo. Però adesso aggiungo un indizio e vi faccio capire che siamo un po' su un'altra strada, perché il personaggio che stiamo cercando in realtà ha cambiato gioco, questa settimana poi in realtà non ha proprio vinto niente, e adesso si occupa di un altro gioco. 800 24 00 24, questo è il secondo indizio, vediamo se ci avviciniamo. Adesso è il momento di introdurre il secondo ospite. Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi. Tanta voglia di ricominciare abusiva. Appalti truccati, trapianti truccati, motorini truccati che scippano donne truccate. Il visagista delle dive adesso è un altro. Parliamo di abusi, di in particolare di abusivismo edilizio. Siamo nella Valle dei Templi, sono iniziate degli abbattimenti di abusi edilizi dopo che per anni, per decenni, per secoli, per migliaia di anni, forse dall'inizio quando sono stati costruiti i templi della Valle dei Templi, c'erano già i primi abusi e si parla di abbattere. Adesso sono iniziati degli abbattimenti, ma non tutto è filato liscio. Io do il buongiorno a Giuseppe Arnone, avvocato ambientalista. Buongiorno Arnone. Buongiorno. Ben ritrovato. Allora, lei diciamo che entra in questa vicenda degli abusi edilizi della Valle dei Templi in due maniere distinte. Da anni si batte, è uno degli ambientalisti e delle persone che si batte di più perché contro l'abusivismo edilizio nella Valle dei Templi, però questa settimana lei è stato portato via di forza dalle forze dell'ordine perché si stava opponendo all'abbattimento di una villetta abusiva. Allora, posso parlare? Sì, prego. Il suo riassunto è soltanto parzialmente vero. Io non mi opponevo all'abbattimento di una villetta abusiva. Io chiedevo che venissero rispettate regole minime di legalità che sono state calpestate. Appena concludo l'intervista con voi, mi recherò in caserma dei carabinieri a concludere una verbalizzazione di 8 ore che denunzia per una serie di gravissimi reati il sindaco, i dirigenti comunali e i magistrati della procura di Agrigento. La vicenda che ha avuto questo spazio nazionale viene vista nella mia città, per le ragioni che immediatamente comprenderete, come una grande buffonata, una cosa semplicemente risibile e ridicola. Mi spiega perché? Perché questo è il punto fondamentale, perché lei non è contrario, lei non è contrario agli abbattimenti, lei dice che questi abbattimenti sono una buffonata. Perché ha salvato la Valle dei Templi dalle lottizzazioni abusive, rimettendoci anche l'elezione al sindaco. Va bene, però adesso mi dice Arnone perché secondo lei questi abbattimenti che sono stati previsti sono una buffonata? Allora, utilizzare il verbo previsto è diciamo eccessivo. Immediatamente lei comprenderà. Questi abbattimenti sono stati presentati dal procuratore della Repubblica, che io ho già querelato, come abbattimenti decisi secondo le leggi in un ordine cronologico di emissione delle sentenze. Sono 8 abbattimenti, uno riguarda una villetta ad un piano, gli altri riguardano rispettivamente un ovile di Ruto, una sentenza, un muretto alto 1 metro, un'altra sentenza, una cucina di 18 metri quadrati, un'altra sentenza, e 3 magazzinetti di 20 metri quadrati, altre 2 sentenze. Bene. Non va bene tutto questo, non è pochissimo, scusi Annone, non è pochissimo. Il presidente di Lega Ambiente ha detto che... Ha detto che, scusi, mi fa... Sì, un attimo. Un attore comico, sì. E probabilmente Lega Ambiente... No, mi faccia dire la dichiarazione, sì. Poi la faccio proseguire ovviamente. Lui ha detto le demolizioni rappresentano... oggettivamente l'inizio, non è che dice la fine del fenomeno dell'abusivismo, ma l'inizio, mi scusi Arnone, mi faccia finire, l'inizio di un processo che segna, Arnone un attimo, mi faccia finire la lettura della dichiarazione, se no non ci capiamo, l'inizio di un lungo processo che segna un'inversione di tendenza nella battaglia contro l'abusivismo edilizio. Allora ripetiamo, perché lei correttamente ha fatto un elenco: abbiamo una villetta, un ovile, un muretto di 1 metro, una cucina di 18 metri quadri, 3 magazzini, non saranno palazzi a 8 piani, però sono comunque degli abusi che è stato deciso di buttare giù. Lei però dice questo non basta, perché non basta? Perché non questo basta, è una buffonata? Questo è stato fatto in violazione delle leggi, le nostre leggi non è che consentono di demolire a piacimento le case che ci piacciono di più, per esempio demolire l'ovile del pecoraio novantenne perché non vi sono proteste e lasciamo invece il palazzone di 6 piani a 800 metri dai templi che vedono tutti i turisti, perché quel palazzone è di interessi di imprese colluse con cosa ma nostra. C'è un palazzo di 8 piani che è abusivo nella Valle dei Templi. Abbiamo mandato le foto ai suoi collaboratori, potete farli vedere, e questi sono gli immobili che dovrebbero essere immediatamente demoliti. Ma andiamo ancora avanti. Ci ha detto il procuratore, e l'ho querelato perché mi ha dato del bugiardo, che stiamo operando le demolizioni con un ordine cronologico delle sentenze. Dicevo, la prima sentenza è del 66, l'ultima è del 2007, di quelle che si stanno eseguendo. Vogliamo dire che in 40 anni il Tribunale di Agrigento ha emesso solo 8 sentenze di abusivismo, una ogni 5 anni? Credo che in questo momento chi capisce come funziona il diritto d'Italia si stia sbellicando. Sì, però scusi, io quello che capisco è che rispetto al passato, dove il ritmo è stato quello che dice lei, poche sentenze, pochi decreti esecutivi, nessun abbattimento, adesso si inizia. Non è un'inversione di tendenza questa, positiva? Allora, tutte le cose in uno stato di... Altrimenti diritto. Non inizieremo mai ad abbattere, no? No, ma dobbiamo iniziare ad abbattere, senz'altro, ma iniziare ad abbattere nel rispetto delle leggi. In questo caso noi non stiamo abbattendo nel rispetto delle leggi, abbiamo semplicemente consentito a 2 magistrati di fare una enorme sceneggiata di cui avevano bisogno per la carriera, rappresentandosi come i salvatori del patrimonio dell'umanità perché demolivano un ovile, il tutto con procedure concussorie nei confronti del comune, perché questi signori magistrati, invece di demolire le opere abusive secondo le leggi di questo Stato, io 15 anni fa sono stato al Ministero dei Lavori Pubblici e ho concluso la convenzione tra l'esercito italiano e l'amministrazione della giustizia, convenzione che prevede che l'esercito deve fare le demolizioni che impone la magistratura. Allora questi signori, invece di fare questo, parliamo dei procuratori Fonzo e Di Natale, sulla base delle leggi, demolire gli immobili dei mafiosi, demolire i palazzi di 8 piani, demolire le speculazioni edilizie, hanno ritenuto incaricare il comune, sì, violando anche il principio di separazione dei poteri e una bella serie di leggi, per operare demolizioni di nessun rilievo. Una cosa ancora, scusi, le voglio chiedere una cosa ancora. Intanto, di queste, diciamo, di queste demolizioni previste, quali sono state effettuate effettivamente? Già. Allora, di queste demolizioni previste ne sono state effettuate 6 e ne rimangono solo 2. Okay. Ma stiamo parlando di cose che per gli agrigentini. Sì, sì, no, ma questo l'ha già spiegato Arnone, l'ha già spiegato chiaramente. Non si ripeta, l'abbiamo già detto. L'ultima domanda che le voglio fare: i proprietari di questi abusi che vengono abbattuti sono poveri cristi, sono povere persone o sono o no? Le voglio chiedere. Cioè, assolutamente poveri cristi. Solo poveri cristi, anche quello della villetta, anche il proprietario della villetta? Ah, il proprietario di una villetta è un impiegato dell'ufficio delle entrate. Io le posso mandare invece le foto delle speculazioni edilizie che ho postato su Facebook, anche quelle sulla riva del mare, in piena area archeologica, di famiglie potentissime e massoniche che fanno la pubblicità ai loro immobili abusivi che affittano ai turisti inglesi e tedeschi, addirittura in lingua inglese e tedesca. A questi signori non abbiamo fatto niente. Io vorrei che lei mi consentisse di chiarire anche un punto. Io guardi, in 30 secondi perché poi devo chiudere, ho una pausa da fare, mi dica in 30 secondi per chiudere. 30 secondi. Io ho ricevuto questi clienti non perché mi hanno detto avvocato, ci vogliono demolire le case e ci difenda. Mi hanno detto avvocato, lei è l'unico che può prendere in mano queste carte dove gli imbrogli sono accarrettate e gli altri avvocati non hanno il coraggio di metterci va bene, domani. Va bene Arnone, grazie per essere stato con noi, del resto non possiamo entrare nel merito delle singole vicende, ma insomma la notizia è questa, sono iniziati gli abbattimenti di edifici, costruzioni abusive nella Valle dei Templi. L'avvocato Arnone, che da anni si batteva contro l'abusivismo, però giudica tutto questo una buffonata. Giudicate voi. 800 24 00 24, riprendiamo tra poco con il riepilogo delle notizie della settimana, però prima della pausa sentiamo un paio di ascoltatori al volo. Salvatore da Latina, buongiorno. Buongiorno. Prego. Volevo dire che secondo me è il tennista statunitense Blake, sì, di colore. Lei sta parlando del personaggio della settimana, secondo lei è il tennista, esatto, Blake, perché? Perché è stato scambiato per un ladro, sì, e arrestato abbastanza brutalmente dagli agenti della polizia. Non conoscevo questa notizia, che però tuttavia è curiosa, il che però dimostra che, Salvatore, ahimè, non era Blake il personaggio che cercavamo. Grazie comunque. Certamente. Grazie. Rita da Milano, tra poco un altro indizio se non indovina Rita. Rita, lei ha chiamato per il personaggio o per altro? No, per il personaggio. Sì. Allora, si intende gioco come strategia, io ho pensato alla Merkel, perché in un primo momento non si è occupato, sì, non si è proprio interessata degli immigrati, invece adesso strategicamente... Ma era una sportiva la Merkel prima? Ah, non lo so, io sto parlando di gioco, sì, come sì, sinonimo perché... di strategia. Giusto Rita, perché io però come primo indizio avevo detto che il personaggio è uno sportivo, poi come secondo... Ah, non ho sentito perché ho esatto. sentito la radio come tardi, secondo indizio bene. Ho detto che aveva cambiato gioco e lei ha pensato a un gioco di strategia e ci poteva stare, però non collimerebbe con il primo indizio. Infatti, che io sappia, la Merkel di sport non era una sportiva, quantomeno famosa, infatti non era lei il personaggio a cui avevamo pensato. Grazie Rita. Aggiungo un altro indizio prima di andare in pausa ed è questo: il nostro personaggio, che è uno sportivo ma che ha cambiato gioco e che questa settimana in realtà non ha vinto niente, anzi forse, era a Venezia ma non a presentare un film. 800 24 0024. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Riprendiamo con il riepilogo delle notizie di questa settimana, una settimana che si è aperta con il traffico in tilt a Bruxelles in tutto il Belgio a causa di una manifestazione di agricoltori ed allevatori che protestavano, i 1500 trattori arrivati da tutta Europa, contro i prezzi bassi dovuti principalmente all'embargo russo, sì, ma anche alle pratiche che questi allevatori definiscono sleali adottate da parte dei distributori. La Commissione Europea ha stanziato 5 500 milioni di euro in aiuto a questi produttori agricoli, ha proposto lo stanziamento, vedremo se lo stanziamento poi arriverà. Contemporaneamente c'è stato un presidio della Coldiretti alla frontiera del Brennero per la difesa del Made in Italy. Sentiamo Pietro Piccioni, direttore della Coldiretti. Il Brennero non è altro che il modo più lapalessiano per far toccare con mano ciò che avviene. Entra di tutto in Italia e tutto diventa italiano, a scapito dei nostri allevatori, a scapito dei nostri produttori di frutta, a scapito dei nostri coltivatori. Noi chiediamo innanzitutto che si riscrivano le regole dell'etichettatura, le regole che in qualche modo portano all'origine dell'etichetta su tutte le produzioni. Buongiorno a Giorgione, chef, conduttore del programma Orto e Cucina. Ben ritrovato, ciao. Esagerato, chef, dai. Cuoco. Oste. Lo so, anche le altre volte dici sempre oste, noi però cerchiamo sempre di ritirarti su come chef, no? Ma in realtà sei molto gentile, ma sai, lo chef sì. C'è un altro percorso. È un'altra cosa. No, ma infatti il tuo personaggio è coerente con l'oste, giustamente. Assolutamente. Chi ti ha visto all'opera, nel programma, insomma, non può che pensarla così. Giorgione, testimonial di Food Truck Festival, cos'è? Un festival della cucina di strada, come la vogliamo chiamare? La cucina di strada, un po', cioè, in Italia in particolare c'è sempre stata, se pensiamo alle calde arrosta, agli oschetti, alle cose, certo. C'è un po' una riscoperta, no? Sì. Anche perché, diciamoci la verità, la cucina buona non deve essere per forza complicata, può essere anche semplice, nel senso che poi dopo su un apetto che gira o su un banconcino non è che troviamo il piatto strapreparato. Libera, nel senso che comunque c'è la libertà di fare una proposta. Sì. E vedo anche tanti ragazzi che si mettono a fare queste cose. Che quindi dà anche un senso di freschezza, di essere giovani per fare anche questo lavoro. Sembra una cosa così un po' naif, no? Però tante persone stanno trovando anche un lavoro, un'occupazione, alcuni si sono inventati delle idee e magari propongono anche dei piccoli franchising di queste cose qua. Sono mercati di espansione, anche perché il cibo per un periodo è stato un po' un attimino anche demonizzato, un po' fra le diete, le cose, cioè adesso piano piano si sta un po' ritornando a un giusto equilibrio, anche perché non ci dobbiamo scordare del sapore. Cioè, io sono sempre stato uno che ha cucinato l'aglio e corrotto, nel senso che poi aggiunge un pochino tutto, però sinceramente poi quando vai a mangiarti un bel panino o una cosa di strada e c'hai un po' un'aggressione alle papille, no? Ti mangi una cosa che è sapida, che è saporita, e quindi francamente ben venga. È un piacere. Deve essere uno dei piaceri, ecco, assolutamente. Ma in Italia in questi anni ci siamo un po' complicati la vita con troppe norme, troppa burocrazia, troppi permessi, per cui forse abbiamo tagliato un po' le gambe a questo fenomeno che adesso forse sta rinascendo. Ci sono i ristoranti, per esempio, come la vedi? I ristoranti che si lamentano della concorrenza sleale del cibo di strada. Senti, allora, innanzitutto che ci siano le norme è anche giusto, nel senso che poi l'igiene e certi tipi di accorgimenti sono importanti, perché parliamoci chiaro, senza fare nessun tipo di facile discussione, perché in realtà bisogna starci attenti. Ma io penso che al di sopra di tutto questo meccanismo ci sia il buon senso. Cioè, è vero che esiste una autocertificazione, ognuno di noi deve sapere che non deve intossicare l'altro e non deve fare schifezze, punto e basta. Cioè, ognuno fa il suo lavoro, e chi c'ha lo street food vende un panino, chi ha un ristorante stellato fa un'altra cosa. Esattamente. Io non, da me non si usa mai il pensiero di raggiungere livelli di forchette e coltelli, cuffiette o cose, perché ti do da mangiare su un pezzo di carta paglia. Quindi voglio dire, c'è già l'impostazione da osteria che non vuole e non merita un certo tipo di accortezze, ma non vuol dire che deve essere sporco o cattivo o fatto male, ecco, questo voglio Food dire. Truck Festival, Food Truck Food Festival, e fino ad oggi, cioè da venerdì fino ad oggi ad Assisi, sì. C'è qualcosa che ti ha particolarmente colpito, qualcosa che magari non avevi mai assaggiato, neanche sapevi che esistesse uno di questi? Allora guarda, ci sta uno che fa il couscous, per esempio, e tu vedi che l'Italia è comunque un paese che da nord a sud ha delle eccellenze strepitose, per cui vedi che bene o male il food truck fa in modo che si conoscano anche altri tipi di cibo. Sì. Cioè non rimaniamo chiusi nelle nostre regioni, perché in effetti l'Italia, veramente, io lo sto girando tutta, ha delle eccellenze nel senso più bello del termine, il cosiddetto chilometro zero, il cosiddetto, tutte queste storie qui sono veramente poi alla fine alla base di un'alimentazione fresca, sana, giovane, libera, buona, perché ci si approvvigiona quello che ci abbiamo intorno, quindi senza andare a fare cose strane, in realtà tu mangi bene perché mangi delle cose che sono fresche, perché sono da vicino, e queste persone che poi girano e portano e fanno ti insegnano anche a mangiare delle cose che non c'è bisogno che siano così fortemente elaborate, no? Senti, hai sentito, siamo partiti con un po' di notizie di questa settimana, sì, il presidio della Coldiretti al brand, insomma, prodotti che sembrano italiani ma fatti con semiderivati, non so, del latte che arrivano dalla Danimarca per fare delle mozzarelle che magari non sono buone come le nostre, o quantomeno insomma ci vorrebbe trasparenza. Chi ha paura dell'etichettatura, secondo te, della trasparenza vera nelle etichette dei prodotti, che sembra sempre che non si rendono impopolari con i grossi, ma sono le grandi aziende che a costi più bassi riescono poi a ottenere dei prodotti, no? Voi immaginate se si potesse fare il parmigiano reggiano con qualche altra cosa. Io sono a vedere gli stabilimenti del parmigiano reggiano, si fa come veramente 300 anni fa, nel senso che il casaro, che è la persona, quindi non è una macchina ma è una persona, decide quanto è consistente, quando è ora di fare quello, quando è ora di fare quell'altro, e il prodotto, che è sempre parmigiano reggiano, in realtà se uno mangia un casello piuttosto che un altro, sente se si abitua un attimino alle differenze. Certo. Quindi per carità di Dio, queste sono cose sacrosante. Però bisogna arrivarci, perché la trasparenza completa delle etichette ancora non c'è, su alcuni prodotti, su altri no. Pensate all'olio, l'olio l'italiano ancora purtroppo lo vede come un grasso alimentare, non è un esaltatore di disabilità, ma come? È alla base di tutto. Un buon olio è alla base di una cucina leggera, sana, buona. Ma che bello. Senti, a proposito di olio vino, sì. Sarà una vendemmia, un vino straordinario, dicono così. Se non ci rovina, adesso io parlo del Centro Italia, che è quello che conosco di più, se non ci rovina un tempaccio finale, sarà, siamo così veramente messi bene. Bene, anno. Bene. Grazie Giorgione, un abbraccio virtuale tra Milano e Assisi. A presto, ciao. Caro. Ciao. Testimonial, nonché presidente della giuria di Food Truck Festival, ancora c'è tempo oggi ad Assisi per andare a vedere un po' di cibo di strada, ad assaggiare qualcosa. Traffico, torniamo tra un attimo. Fluentis, il gestionale che in un'app ti guida nella crescita del business. Scoprilo, fluentis.com. Vi presenta... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, 800 24 00 24, ci chiama Roberto da Roma, buongiorno. Buongiorno Alessio, io chiamavo per il personaggio della settimana. Sì, chi è secondo te? Allora, secondo me è Bobbo Vieri, che non era avuto un problema al casinò di Venezia, se non ricordo male, per una giacca. Eh sì, ha cambiato gioco, gioca a poker, è andato al casinò, esatto. E raccontaci la notizia velocemente. La notizia, sì, non aveva la giacca e l'hanno buttato fuori, entrare, in pratica. Lui si è molto arrabbiato, insomma. C'è sembrato bello, noi parliamo spesso male delle slot machine, del gioco d'azzardo, invece dentro i casinò è giusto che uno possa andare a divertirsi, fare quello che gli pare, e quindi tutta la solidarietà a Bobbo Vieri, che siccome non aveva la giacca non l'hanno fatto entrare, poi lui ha reagito a modo suo. Grazie Roberto, vinci la mini guida di Expo edita da 24 ore Cultura, quindi il premio siamo riusciti ad assegnarlo, benissimo, siamo felici, vai! E adesso conosciamo un italiano che si è fatto strada, anzi che le strade le ha conquistate, così come si fa a Monopoli. Infatti lui è il campione, fresco fresco campione mondiale di Monopoli, Niccolò Falcone. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Niente poco di meno che dalla Cina, dove hai recentemente conquistato il titolo di campione del mondo di Monopoli. Complimenti. Esatto, il titolo l'ho vinto. Ah, grazie mille. Il titolo l'ho vinto a Macao e adesso sono a Yangshuo. Consiglio a tutti di venire a visitare con queste campagne pazzesche. A conoscere la grande Cina. Senti, quali sono le doti che bisogna avere per essere un campione del mondo di Monopoli? Ci vuole una gran fortuna e poi la voglia di partecipare ai campionati di selezione e poi mondiali. Ma ovviamente conoscere bene le regole e non fare errori. Ma anche essere un buono stratega? Adesso è qualche anno che non gioco, però dai miei ricordi... No, sì, c'è un minimo di strategia, ovviamente c'è, sì. Non è sufficiente tirare i dadi, però senza l'aiuto dei dadi si va poco lontano. Ovviamente non sono uno sportivo, rifaccio una partita con uno qualunque dei partecipanti e me la gioco, non è che la vinco. Non bravo, sono campione ma modesto, hai vinto un premio in denaro? $20,580 americani. Beh, insomma. Che sono il contenuto della scatola del Monopoli. La Nuova Venezia ha giustamente detto che ho convertito in soldi veri i soldi del Monopoli, realizzando il sogno di tutti i bambini. Bravo, il sogno di tutti, certo. Adesso sei pronto per entrare nel mercato immobiliare quello vero con questi 20.000 euro? No, non credo, non è che... Non mi pare che stia proprio tirando molto il mercato immobiliare in questo momento, non lascerei stare. Però molte società immobiliari sembrano utilizzare i soldi del Monopoli, se stiamo ai fallimenti che ci sono in giro. A parte gli scherzi, cosa ti porti, diciamo, dietro, no? Da questa esperienza che hai fatto? Ma intanto un seguito mediatico incredibile che mi sta di molto divertendo. A me molto, alla mia ragazza un po' meno, perché sono sempre al telefono a rispondere, sì, un po' sì, però comunque è veramente molto divertente come cosa. E poi? E poi i soldi. Ma senti, ma... Quelli là sono molto comodi in tasca mia. Quindi ti resta questa, diciamo, visibilità mediatica e i soldi. Quante partite hai dovuto vincere però per diventare il campione del mondo di Monopoli? Oddio, adesso la domanda, fargli il conto di tutte, mi metto un po' in difficoltà. Per quanto riguarda il solo campionato mondiale, ci sono state 3 selezioni. Sì. Una vinta, uno arrivato terzo e uno buttato fuori. Uh-huh. E poi le semifinali e la finale, che quello lì invece le ho vinte entrambe. Okay. Ai nazionali più o meno uguali, quindi altre 5, e ai regionali, se non sbaglio, sono state 3, quindi in totale dovrebbero essere 13 partite da un'oretta più o meno. Senti Nicola, ma tu giochi anche nel tempo libero o soltanto nelle competizioni, diciamo così? No, io in realtà non sono un tossico del Monopoli. L'ultima partita che avevo fatto prima dei mondiali con persone vere è stata la finale dei nazionali. Ho giocato un po' al telefonino per imparare i contratti. Per tenerti in allenamento, diciamo. Anche, va. No, per più che altro per conoscere i nomi delle proprietà, sì. Inglese. Il Monopoli, sì, sì. È un gioco territoriale. In Italia c'è Parco della Vittoria, negli Stati Uniti c'è Boardwalk. Quindi per non arrivare impreparato al mondiale ho scaricato l'app sul telefono e ho imparato i termini inglesi. Senti, ma chi sono i giocatori migliori, a parte te naturalmente? Il giapponese? Risposta certa, il giapponese, un computer ambulante. Sì, una cosa incredibile, mamma mia, sapeva tutti i prezzi a memoria, andava velocissimo, faceva i conti delle ipoteche a velocità... stratosferica. Era un calcolatore umano. Ma in inglese giocavate, no? Immagino. Giocavamo in inglese, molti avevano il traduttore, questo l'interprete, questo rallentava molto il gioco e in inglese si giocava comunque. Poi in linea di massima, cioè, è un gioco da tavolo, quindi bastava guardare quello che succedeva, dove andava la pedina e dire quanti soldi ti devono dare o dare i soldi che ti chiedevano. Quindi insomma il mondo un giorno sarà tutto dei giapponesi, compreranno tutto. Senti, ma sogni di fare che cosa da grande? Tu hai 30 anni, sei... Allora, io ho fatto l'esame d'avvocato, ma sto cercando di fare altro. In questo momento lavoro per la pubblica amministrazione, l'ufficio contenzioso del Comune di Venezia. E la mia grande passione non è il Monopoli, per quanto sia un gioco che ovviamente mi diverte molto, ma è fare satira. Da qualche anno mi diverto a scrivere battute abbastanza taglienti e ultimamente sono state apprezzate da Comedy Central della piattaforma Sky, sì, che mi hanno selezionato per un programma di stand-up comedy, Natural Born Comedians. È stata un'esperienza fenomenale e spero di poterla continuare. Se ti avanza tempo, ovviamente, ti ingaggiamo anche noi di Si Può Fare, esatto, perché no? Grazie Nicolò, in bocca al lupo. Nicolò Falcone, a suo modo, insomma, un italiano che si è distinto nel mondo questa settimana, il neo campione del mondo di Monopoli. Ciao, grazie per essere stato con noi. Ciao. E allora, questa era un po' l'ultima storia di questa puntata, una puntata nella quale abbiamo un po' rivoluzionato il programma, abbiamo cercato di seguire il filo delle notizie della settimana. Abbiamo ancora un paio di minuti, io do il buongiorno e il benvenuto nella squadra di Radio 24 a Maria Latella. Buongiorno, e sono veramente contenta di entrare nella squadra di Radio 24, che è piena di programmi interessanti e molto seguiti. Bene. E con un sacco di ascoltatori, che non fa mai male. Certo, Maria Latella, che tra poco la sentirete nel programma nuovo di Zecca, Nessuna è perfetta. Raccontaci che cosa hai in mente di fare in questo nuovo programma. Allora, come dice il titolo, Nessuna è perfetta, e dunque non sarà perfetta nemmeno questa nuova trasmissione, ma conto molto sul sostegno, i consigli, le critiche di chi ci ascolterà e che potrà appunto twittare o scrivermi o stare su Facebook con noi. Nessuna è perfetta parte dal presupposto che negli ultimi 20 anni ci hanno detto, soprattutto hanno detto a noi donne, che dovevamo essere perfette e dovevamo essere perfette in tutto, molto brave in ufficio, sul lavoro, ma anche molto sexy, quindi sempre sui trampolini perché sennò guai, molto brave come mamme, ma anche informate, cittadine esemplari. Nessuna è perfetta parte dal presupposto che il multitasking è una fregatura. Ecco, mi sembra una dichiarazione di intenti niente male. Io ti devo salutare, dato tra poco il microfono è tutto tuo. Grazie Maria. Grazie. Ciao, buona domenica. Ciao. Tra poco. Buona domenica, tra poco. Tra Ciao. Poco, Nessuna è perfetta. Tra poco invece, ancora prima, il giornale radio. Si chiude qua questa puntata. Ancora ringraziamenti a Andrea Piana, Lorenzo Nespoli, Claudio Schiattone, Peter Bescapai in regia. Con Carlo Gabardini ci ritroviamo a partire da sabato prossimo con la puntata del sabato, poi con quella della domenica naturalmente. Ciao a tutti, buona domenica da Alessio Maurizio. Un abbraccio, ciao.